Hadith numero 24 da Abu Dhar al-Ghifari, che Allah si compiaccia di lui, è stato tramandato che egli ha saputo dal profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, di tra le cose che gli sono state insegnate dal suo Signore, egli è potente ed eccelso, che egli, Allah, ha detto: o miei servi, in verità io ho proibito a me stesso l'ingiustizia e l'ho resa proibita tra voi. Perciò non siate ingiusti gli uni nei confronti degli altri. O miei servi, ognuno di voi è in errore, tranne colui al quale ho dato la giusta direzione. Perciò chiedetemi la giusta direzione e io vi darò la giusta direzione. O miei servi, ognuno di voi è affamato, tranne colui al quale ho dato cibo. Perciò chiedetemi di darvi cibo e io vi darò cibo. O miei servi, ognuno di voi è ignudo, a eccezione di colui al quale ho dato vestito. Perciò chiedetemi vestito e io vi vestirò. O miei servi, voi peccate nella notte e nel giorno e io perdono tutti i peccati. Perciò chiedetemi perdono e io vi perdonerò. O miei servi, in verità voi, se tenterete di nuocermi, non ci riuscirete, e se tenterete di giovarmi, non mi gioverete. O miei servi, se anche tutti voi, uomini e jinn, dal primo all'ultimo, fossero nella condizione del cuore più timorato di un uomo solo di voi, ciò non aumenterebbe in nulla il mio potere. E se anche tutti, uomini e jinn, dal primo all'ultimo di voi, fossero nella condizione del cuore più scellerato di un uomo solo di voi, ciò non diminuirebbe in nulla il mio potere. O miei servi, se anche tutti, uomini e jinn, dal primo all'ultimo di voi, fossero in un solo luogo e mi chiedessero di esaudire le loro richieste di ricchezza, dopo aver esaudito le richieste di ognuno, ciò non farebbe diminuire ciò che è presso di me, se non come fa diminuire il livello del mare lago quando viene tirato fuori dall'acqua dopo esserci stato fatto entrare. O miei servi, solamente le vostre azioni io le registrerò sul vostro conto e poi, in relazione a esse soltanto, vi compenserò. Perciò, chi troverà del bene, proclami la lode di Allah, e chi troverà dell'altro, non riproveri altro che se stesso. L'ha riferito l'Imam Muslim.